America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. A top Democratic aide in the House tells ABC News what is increasingly obvious to everyone, and that is that that pressure for Anthony Weiner to resign is growing quickly. La ABC News, un reportage dal Congresso, si dice che il deputato Anthony Weiner, che mandava queste foto porno su Twitter, se ne deve andare. As a woman, as a member of Congress, as his colleague, is that I think the right thing to do for Congress, for his constituents, and for the American people is to resign his position. Il reportage riflette le parole di Alison Schwartz che avete appena sentito. Questa deputata democratica della Pennsylvania ha detto che è molto offesa da quel che è successo e dunque insiste sul fatto che il signor Weiner, che non ha dimostrato certamente né credibilità nel giudizio nel fare quello che ha fatto, non potrà rappresentare la sua constituency in Parlamento. E la moglie, Huma Abedin, che cosa dice? I feel like in many ways a lot of us sort of feel blessed to be part of this family. It's a two-way street. I mean, she gives to us as much as I feel totally. Like we give you to her. Avete sentito questa donna straordinariamente intelligente? Beh, la sua posizione è che secondo lei il marito non se ne deve andare. La stessa posizione naturalmente del marito. I am deeply regretting what I have done and I am not resigning. I have made it clear that I accept responsibility for this. And people who draw conclusions about me are free to do so. Continua a insistere, non ha violato la legge e dunque deve restare al suo posto. Stiamo su questa storia, perché la storia di Anthony Weiner e del dramma di sua moglie, Huma Abedin, bellissima, esotica, incinta da pochi mesi del loro primo figlio, mi ha colpito perché erano davvero una coppia perfetta fino all'evidenza della stupidità, perché devo dire non si può parlare di altro, di Weiner, che lo rende naturalmente poco credibile, come ci diceva la Schwartz poco fa. E questa storia perché colpisce l'America? Beh, perché ha mille risvolti di tipo psicologico, per esempio sdoppiamento di personalità, sociologico. Ma questi uomini di potere sono davvero celoduristi tutti quanti o qualcuno si salva? Risvolto politico, che conseguenze ci saranno per i democratici? Però ce n'è una secondo me che è molto importante, e perché sapevamo che nell'era di internet non ci sono più segreti per nessuno, ma non sapevamo ancora che si sono formate delle bande organizzate che navigano su internet con l'unico scopo di raccattare qualunque informazione che potrà essere usata contro un politico, però arrivo anche al punto, contro uomini d'affari, banchieri, imprenditori, cioè è una catena questa che poi potrà avere delle manifestazioni in settori diversi da quella della politica. Perché? Vediamo perché. Perché le rivelazioni su Weiner vengono ufficialmente dal blogger conservatore Andrew Breitbart, e Breitbart è diventato una celebrità per questo suo scoop e per aver messo naturalmente i democratici in croce. Ma chi c'è dietro Breitbart? Un'inchiesta del New York Times ha rivelato che un navigatore solitario, chiamiamolo così, a nome Dan Wolf, il cui indirizzo su Twitter Patriot USA 76, aveva creato un altro nome, Twitter Born Free Crew, che prendeva di mira Weiner seguendolo in tutti i suoi movimenti Twitter. Ed ecco qual è veramente la cosa eclatante, che questo gruppo su Twitter è cresciuto fino a raccogliere 1000 partecipanti. Ciascuno di questi era pronto a seguire ogni messaggio del deputato, le mosse di ogni destinatario, recuperare i movimenti del destinatario e i collegamenti del destinatario con altri iscritti a Twitter, per ricostruire possibili violazioni etiche o comunque violazioni della legge o comunque qualcosa di illegale di qualunque genere. Ecco, poi si è saputo che questo Dan Wolf, quello che ha dato le informazioni al signor Breitbart, che poi è diventato la celebrità, è sconosciuto. Il suo nome è falso, il suo indirizzo su internet non esiste. E dunque, devo dire, lo trovo questo un aspetto alquanto inquietante di questa situazione, perché pone l'indice su un qualche cosa che avviene su internet di cui tutti noi dovremmo preoccuparci. Non si tratta qui soltanto di privacy, non si tratta soltanto di Google o Facebook che usano magari i nostri dati personali per avvantaggiarsi dal punto di vista pubblicitario. No, qui si tratta di, come vi dicevo, bande armate di computer che girano, esplorano, navigano su internet, dei veri e propri pirati che in questo caso, devo dire, hanno tirato fuori uno scandalo vero. In altri casi, chissà, forse potrebbero approfittarsene. We can and we must address every angle of a cyber case. This is critical because what may start as a criminal investigation may lead to a national security threat. I take for example a next generation bank robbery that occurred. A group of cyber criminals orchestrated a highly sophisticated attack on a major financial institution. Robert Mueller, capo dell'FBI, uno degli uomini più potenti d'America, parla di cyber attacks, lo avete sentito, attacchi informatici, fa un riferimento ai problemi che ci sono stati nel settore finanziario, a un attacco alle banche, ma soprattutto dice, e dobbiamo stare molto attenti perché da questo potremmo avere dei veri e propri problemi di sicurezza nazionale. Ebbene, un cyber attack, un attacco informatico, quindi una versione un po' diversa ovviamente da quella di cui vi parlavo prima, di questi pirati che girano su Twitter, che girano su Internet cercando di carpire, controllare e avere informazioni sulla vita privata del comune cittadino, no? Qui proprio l'attacco organizzato, proprio ieri c'è stata una denuncia, perché? Beh, perché neanche lo scudo difensivo di una delle più grandi banche del mondo è riuscita a controllare un attacco informatico. La Citigroup ha rivelato ieri di aver bloccato le carte di credito di decine di migliaia di clienti perché c'è stata una penetrazione del suo scudo di sicurezza da parte di hackers che sono riusciti a prelevare le informazioni relative alle carte di credito di decine di migliaia, appunto, di suoi clienti, l'1% addirittura di 21 milioni di titolari di conti correnti negli Stati Uniti. Quindi è una notizia ovviamente questa molto molto preoccupante, rassicurante sotto un altro punto di vista, perché poi i sistemi di sicurezza sono in qualche modo scattati e i pirati non sono riusciti a penetrare tutto lo scudo, per esempio non sono riusciti a carpire il codice fiscale, informazioni anagrafiche, i codici di sicurezza, il PIN di sicurezza, le date di scadenza delle carte di credito, e dunque diciamo che il danno in qualche modo è stato contenuto, però si dovranno sostituire decine di migliaia di carte di credito e soprattutto i pirati sono riusciti comunque ad addebitare a numerose, a migliaia di carte di credito, piccoli acquisti che andavano tutti a ricadere su un conto che era sotto il loro controllo. Immaginate cosa potrebbe succedere, potrebbe essere un romanzo giallo, se questo accadesse su tutto il network finanziario di Citigroup, che è il più grande del mondo, pensate che ha 200 milioni di clienti in 146 paesi, 16.000 filiali, 260.000 dipendenti, stiamo parlando di un colosso finanziario straordinario. Ecco, se invece di essere state poche decine di migliaia fossero stati milioni, beh, non sono certo che Citigroup si sarebbe impegnata a ripagare tutto come ha fatto ieri, si è presa la responsabilità, ha detto che rimborserà direttamente tutti coloro che hanno sofferto da questo attacco. Ma insomma, il problema c'è ed è un problema ormai talmente diffuso, beh, che vi devo raccontare una piccola storia che ci riguarda direttamente. Anche noi in redazione siamo stati oggetti di un piccolo attacco informatico, non direttamente alle nostre spese, ma ci siamo accorti che il nostro indirizzo, il nostro numero di telefono era stato dato come riferimento a qualcuno che faceva delle inserzioni pubblicitarie in paesini sperduti d'America. Non posso dirvi altro perché abbiamo fatto aprire un'inchiesta su questa vicenda, ma devo dire che questa pirateria dilaga evidentemente su ogni livello. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Vogliamo dedicare la canzone del giorno, beh, alla musica informatico-elettronica e di Calvin Harris, uno dei compositori più avanzati nella cyber music. Vi faccio ascoltare Bounce Ellis. New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.